Sharpie. È diventato impotente a furia andare in televisione. Beh, no, no. E anche Berlusconi, insomma, no? Cioè li ha resi impotenti tutti e due, dici? Beh sì, ormai ragazzi. Ma no, Berlusconi non pare impotente, però. Ma no, no, io dico impotente in un altro modo, politicamente. Insomma, la televisione fa malissimo. Ma quello andare in televisione. Sgarbi sta sempre in macchina, tra l'altro, ha fatto pure un incidente per stare sempre in macchina. Muore la Resinello. Muore la pecorella, muore la gente piena di guai, ma i rompicoglioni non muoiono mai. Cioè Sgarbi, dici. Vabbè, tu adesso. No, nel senso che è andato in coma in coma l'autista, invece lui si è salvato, dici, no? No, ma lui non può andare in coma, è in coma da 30 anni. È già in coma da 30 anni. Ma coma dai, che lo hanno pure coma televisivo. Senti, ma lo hanno pure operato. Dai, fagli gli ma auguri. Guarda che guarda. Gli ho mandati, non mi ha risposto sto stronzo. Guarda che tra l'altro che dopo un giorno è ricomparso subito in tutti subito i talk show. In televisione, con la scusa. Sì. Come con la scusa? Una bella scusa con le braccia ingessate. Con la scusa le braccia ingessate. Ma scusa. In televisione. Ha raccontato tutto dopo un secondo, già raccontava tutto quello che gli era successo, ti giuro. Un'altra scusa per andare in televisione, altro che punto G. Io ho visto a un certo punto l'incidente e dopo un secondo c'erano dei siti che avevano già la voce di Sgarbi che raccontava l'incidente con l'autista in coma. Ma dai, su. Un sito di strada apposta per poter ritornare in televisione e parlare. Questo è Sgarbi. No, dai, nessuno lo vuole più.